Ciao bello. Pronto. Ecco, pronto. Sono Antonio Di Pietro. Salve Di Pietro. Cercavo il signor Porchera. Sì. Sono qua, sono io, salve. Buongiorno Porchera. Non faccia quella voce che mi intimorisce però. Sono Antonio Di Pietro. Le volevo ricordare che io sono già al lavoro dalle 6 di questa mattina. Ma perché? Per incularla. No, no. Metaforicamente, si intende. Ecco. Perché quello che io non riesco a fare con Berlusconi, sì, lo voglio fare con Porchera. Praticamente tutto. Buongiorno, dottor Di Pietro. Le ho portato i giornali di oggi. Vuole qualcos'altro? Sì, senti, bella. Vai al sexy shop a comprarmi gli anelli vibranti della Durex. Che me li ha consigliati DJ Angelo. Va bene, dottor Di Pietro. Ma che fai? Ma fermo, ma sta scherzando, signorina. Ma secondo lei io... Ma che cavolo, ma non si può nemmeno fare una battuta, non si può fare. Pronto, dice Angelo. Pronto, dottor Di Pietro. Guardi che anche lei la sto curando. Meno male. Ma dagli incartamenti non esce niente, non esce niente. Sono qualche passione incontrollabile per la patata. E questo deve stare attento, perché la porta a fare un sacco di cazzate, dice Angelo. Va bene, stare attenti, sì. E io qui non mi stancherò mai di dirle una cosa, che lei deve stare lontana da mia figlia Orlando. Come Orlando? Se lei sta lontana da mia figlia Orlando, lei può stare tranquillo. Io per mia figlia Orlando voglio un bravo ragazzo. Ma scusi un secondo. Non il dischicei analfabeta, maniaco sessuale. Non lo voglio. Ma Orlando è un nome maschile, ci scusi. Sì. Vabbè, che c'è? E il nonno si chiamava così. Ma torniamo a lei, Porchera. Ieri in Parlamento, che è successo? Ho sentito parlare di un certo Lodo Porchera. Un decreto che se passa, sì, la mette con il culo in salvo dal mio lavoro. Magari, speriamo. È per questo che uso il mezzo per dire e invitare tutti i cittadini ascoltatori di Radio DJ a scendere in piazza a protestare. Io Di Pietro stesso in persona oggi pomeriggio sarò per le vie di Milano a bordo di un sulchi megafonato a gridare una volta per tutte la mia rabbia contro il Lodo Porchera. Non sapevo neanche esistesse. Scusate che c'è ancora la mia segretaria, un attimo. Scusi dottor Di Pietro, posso farle una domanda? Mi dica, signorina. Posso avere per favore il numero del DJ Angelo? Mi piacerebbe provare gli anelli vibranti. Vada signorina, per piacere. Vada via, prima che mi giro i coglioni. Pronto ragazzi? Sì, pronto. Stavo dicendo che per tutti i cittadini onesti abbiamo preparato anche un comunicato, sì, che li mette in guardia dal Lodo Porchera. E ve lo faccio sentire subito. Un comunicato. Oggi in Parlamento si vota il Lodo Porchera. Questo emendamento, se approvato, permetterà a Roberto Ferrari di non essere giudicato per tutte le sue malefatte, che vanno da emissione di assegni in bianco, truffe ai danni dei proprietari delle discoteche, appropriazione indebita di giornali e riviste all'interno dell'emittente Radio DJ, millantamento di viaggio spaziale, che lo sanno anche i cani che non avverrà mai, furto di idee altrui e tentativo di vendere la Fontana di Trevi ad un turista americano. Se anche tu come noi sei contrario al Lodo Porchera, vieni con noi domani mattina in Piazza Vetra a Milano. E ricordate che più tanti siamo e più tanti al Porchera lo inculiamo. No. Ciao belli.